Vivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Stamattina, di prima mattina, parliamo delle nostre gambe. Lo abbiamo già fatto tante volte nel corso dell'anno, non le abbiamo mai trascurate e figuriamoci se lo facciamo ora, nel momento più critico dell'anno, perché in questi giorni è facile tornare a casa con le gambe gonfie, le gambe pesanti, si ha un po' l'impressione di avere le scarpe strette, si avverte una sensazione di pesantezza, a volte accompagnata anche da una tensione un po' dolorosa, e a volte si accompagna anche un leggero, proprio leggero, ma comunque fastidioso prurito. Allora, oggi per parlare di tutti questi piccoli e grandi problemi che pesantiscono, è il caso di dire, la nostra quotidianità, ho invitato una grande amica della nostra trasmissione che torna a trovarci. Io sono molto contenta, la dottoressa Lidia Rotavender, presidente di ALT, medico esperto in malattie cardiovascolari da trombosi. Dottoressa Rotavender, buongiorno e bentornata. Buongiorno, anch'io molto contenta di ritrovarvi. Allora, dottoressa, lo sappiamo, è un po' ogni estate lo stesso problema. Al mattino ci sentiamo leggeri come delle piume, alla sera le nostre gambe sono pesantissime, a volte proprio avvertiamo anche una sensazione un po' dolorosa. E poi sono gonfie, ce ne accorgiamo, togliamo i sandali, togliamo le scarpe, o ancora se chi porta, magari gli uomini portano ancora sotto i vestiti le calze, ecco lì che c'è il segno. Quindi vuol dire che non è una sensazione, qualcosa è cambiato. No, non è per niente una sensazione, è un fenomeno abbastanza nella nostra circolazione del sangue, che nelle vene dalla periferia deve tornare al cuore, fa un po' più fatica perché quando fa caldo a livello periferico, cioè gambe, braccia e mani, hanno più rallentamento di ritorno del sangue verso il cuore, e quindi questo dipende dal fatto che il cuore, quando spinge il sangue dentro nelle arterie, ha l'aiuto delle arterie che sono elastiche e trasportano quest'onda pulsatoria che porta il sangue fino ai rami più piccoli, più lontani, al microcircolo. Per richiamare il sangue venoso sporco, lo ha bisogno di essere aiutato. Se la pressione di espulsione del sangue dal cuore è forte, che è quella che misuriamo come pressione sistolica, la pressione di aspirazione è molto meno potente. Quindi cosa succede? Che quando fa caldo i nostri vasi periferici si dilatano. Poi c'è la forza della gravità, perché noi siamo in piedi. Quando siamo sdraiati durante la notte il nostro circolo lavora sul piatto, diciamo, perché siamo sdraiati. Quando ci mettiamo in piedi la mattina è come se ci fosse una caduta del sangue verso la periferia, soprattutto nelle vene che sono meno elastiche. Quindi la sensazione di gonfiore può essere solo una sensazione, perché noi sentiamo che le gambe sono più pesanti, sono più tese, la pelle è più tesa, oppure può essere una vera obiettiva evidenza di gonfiore, e questo gonfiore si vede soprattutto nelle mani, nei piedi, in particolare nei piedi e nelle caviglie. È importante, perché bisogna capire se questo è un fenomeno assolutamente naturale, compatibile con i cambi di temperatura, con gli sbalzi di temperatura, oppure se c'è qualche cosa nel nostro circolo venoso che non è proprio efficientissimo. Facciamo il gioco del semaforo, tre colori. Sì. Lei ride. Verde, arancio, rosso. Abbini ad ogni sintomo il colore adatto, in modo da farci capire subito se il disturbo che avvertiamo richiede solo qualche piccola attenzione, poi lei ci darà naturalmente i consigli, o se invece richiede un approfondimento, o può essere un campanello d'allarme. Insomma, magari sarebbe meglio parlarne con il proprio medico. Pronta, dottoressa? Allora, sì, sono pronta. Allora, io vado, lei mi dica i colori, tiri fuori i colori. Bene. Senso di pesantezza alle gambe e formicolio. Fra il verde e l'arancio. Gonfiore, specie alla fine di una giornata in cui siamo stati in piedi a lungo o tante ore, magari sedute. Arancio. Prurito o dolore, però simili, attenzione, ai crampi, soprattutto di notte. Fra arancio e rosso. Ma verde non me lo dice mai. Capillari. L'ho detto. Capillari, insomma, quelle retine, teleangiectasie che si formano intorno alle caviglie oppure anche nell'interno delle cosce, sono antiestetici, ma che colore gli diamo? Capillari dilatati, persistenti, che ci sono da tempo, lasciamoli verdi. Però possono scivolare sull'arancio poi, se peggiorano, se sono stabili possono essere verdi. Quindi se i capillari ci sono da tempo, sono sempre gli stessi, ci sono queste specie di ragnatele soprattutto nelle donne sulle cosce, oppure ci sono dei capillari dilatati, anche un po' di discolorazione intorno alle caviglie, questo anche nei maschi, questo può essere stabilmente verde, ma è sempre stato determinato da qualcosa che può essere successo in passato, quindi al momento è un verde. Quindi avete anche voi segnato un po' i colori perché vi possiate organizzare e mettere in atto magari i consigli che la dottoressa Lidia Rottavender ci regalerà di primo mattino, proprio per provare magari ad arrivare a sera più leggerini, delle piumette. Allora, se fosse inverno, allora io direi che tutti coloro che hanno questi sintomi di dilatazione del circolo periferico con le vene varicose per sono un segnale di arancio rosso e che magari in alcune persone sono anche l'esito di momenti in cui c'è stata forse anche un rallentamento importante del circolo che ha portato addirittura una flebite o una trombosi, allora quello, se fossimo d'inverno, direi calze elastiche obbligatorie sempre, tutto il giorno, per tutto il giorno, a partire dal mattino fino alla sera, e questo è l'unico modo per fare prevenzione di un nuovo ristagno di sangue che potrebbe portare un problema. Secondo, ci sono i fattori complici di tutto questo, di tutte queste sensazioni, perché uno è la gravità, perché nel momento in cui ci mettiamo in piedi è come se avessimo una colonna di sangue che fa più fatica a tornare verso il cuore, quando siamo sdraiati questo non c'è, però ci sono altri fattori che concorrono a rendere più evidente il sintomo, ma anche quello che si vede, quindi il sintomo soggettivo ma anche quello oggettivo che si vede, e sono per esempio il sovrappeso, il grasso sull'addome, il fatto che ci siano delle terapie ormonali in corso, soprattutto la gravidanza in corso, il periodo dopo parto, quindi non dobbiamo mai, secondo me, guardare soltanto ed esclusivamente un sintomo, un segno solo isolato dal contesto. Noi siamo fatti di un insieme, noi siamo un insieme, e sarebbe un errore guardare soltanto le gambe e non pensare al resto. Una persona di 70 anni che per esempio ha un cuore un po' affaticato perché magari ha avuto l'infarto in passato, anche se curato molto bene, è una persona che facilmente può avere durante l'estate un'accentuazione del ristagno di liquidi, maschio o femmina o uomo o donna che sia. Ecco, dottoressa, lei ha sottolineato uomo o donna che sia, perché spesso si pensa che il problema delle gambe gonfie, sto così banalizzando, sia esclusivamente femminile. Non è così. Ci sono differenze fondamentali fra gli uomini e le donne in termini di assetto ormonale. Gli ormoni femminili che caratterizzano il sesso femminile sono ormoni che purtroppo hanno un impatto abbastanza importante sulla elasticità delle vene. Se poi pensiamo che molte donne hanno avuto gravidanze in precedenza che hanno messo a dura prova l'elasticità delle vene, ecco, è più facile che le donne possano avere questi sintomi di gonfiore, ristagno, comparsa di ectasie capillari sulle cosce e addirittura di vene dilatate o di varici. Nel maschio questi ormoni femminili ci sono in piccolissima quantità, ma prevalgono ovviamente gli ormoni maschili. Il maschio può avere altri problemi, può avere del grasso addominale, può avere anche il maschio delle vene varicose, ma può avere anche avuto un problema di cuore che, come sappiamo, fino ai 50 anni è più frequente del maschio, e quindi avere un cuore che fa più fatica ad aspirare il sangue dalle vene per riportarlo nel circolo arterioso. Dottoressa Rottavender, a proposito di vene varicose, quali attenzioni e precauzioni è bene seguire con il caldo e con una particolare così attenzione alle persone che fanno sport? Le vene varicose sono delle vene che non solo sono dilatate e appariscenti, ma sono anche tortuose. C'è un piccolo esperimento che possiamo fare per capire se una vena è diventata davvero varicosa, cioè se ha perso la sua elasticità, oppure se è soltanto una vena, come succede nei giovani sportivi, che è diventata gonfia perché sta il circolo lavorando di più per nutrire la massa muscolare, quindi lavorano di più le arterie ma anche le vene. Allora, supponiamo di prendere una gamba, solleviamo la gamba verso l'alto e guardiamo la nostra vena che compare lungo la gamba. Se quella vena non è troppo tortuosa ma è piuttosto appariscente, noi possiamo fare un lavoro di scorrimento con un dito indice della mano sinistra, partiamo dal piede, scorriamo lungo la vena come se la volessimo svuotare, la vena si svuota e scompare, poi abbassiamo la gamba, lasciamo andare il detto, se la vena si riempie a ritroso, quindi si riempie partendo dall'alto e si riempie verso il basso, quella è diventata una vena varicosa, quindi è un punto di debolezza. E possiamo prendere il sole anche abbiamo delle vene varicose, oppure è meglio non il sole diretto? A volte si vede sulla spiaggia la persona coperta, magari che copre le gambe con un asciugamano fresco, proprio per tenere protette le gambe dall'azione dei raggi solari. È una buona indicazione oppure no? Allora, le gambe che hanno sofferto e hanno una elasticità delle vene persa e quindi hanno queste manifestazioni come l'ectasia capillare o come gonfiore, non dovrebbero mai essere esposte direttamente al sole più caldo come se le avessimo messe sulla griglia del barbecue, non devono mai. Un buon consiglio è quello che quando si va alla spiaggia, se fosse possibile con delle scarpe appropriate, camminare nel asciuga con l'acqua che arriva fino alle cosce, questo lavoro di continua proprio massaggio che l'acqua, sì, camminando, per di più acqua salata, fa sulle nostre gambe, aiuta molto il circolo venoso a... Ecco, allora, dottoressa Rottavender, lasciamoci con questo con questa immagine che sa di vacanza. Noi che camminiamo sulla battigia o anche un pochino più in là per farci massaggiare dal mare, e invece andiamo, iniziamo una nuova giornata. Grazie alla dottoressa Lidia Rottavender per essere stata con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie a Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, a Miriam Lucchetti in assistenza, a Laura Vanossi in redazione. Noi torniamo come sempre dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca.